9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon martedì 3 agosto. Il tema della puntata di oggi lo abbiamo scelto ieri. Poi dice che i giornali non servono a niente. Servono. Se uno ha la costanza e la voglia ancora di trovare nella carta stampata soddisfazione ai propri interessi, ieri, tentando di non morire di pizzichi, leggendo le diverse cronache, diversi commenti, naturalmente è un'espressione di ironia, nei confronti dello sviluppo politico in atto dai giorni precedenti per l'espulsione dalla PDL dell'onorevole Fini e dei suoi seguaci e la costituzione di gruppi in Parlamento che alla Camera dei Deputati fissano il centrodestra senza la componente finiana a una soglia di 308 voti inferiore alla maggioranza necessaria al governo per andare avanti, ci siamo imbattuti in una lettura che ci ha molto colpito, ci ha ridato un po' di entusiasmo per tentare di vedere queste cose della politica italiana senza dormirci troppo sopra, perché la mia opinione banale è che si tratti di una lunghissima battaglia per la leadership arrivata al fondo, perché si tratta di capire se Berlusconi va avanti e farà meno anche di Fini, come ha fatto di Casini, per governare, o altrimenti Fini, dopo Casini, lancia la sua ambiziosa posta per la successione del leader, oramai un po' avanti con gli anni, alla testa di un eventuale centrodestra italiano. Per me si tratta di questo, ma tanti temi sono collegati a questo, e leggendo ieri La Stampa, l'editoriale in prima pagina di Luca Ricolfi, che sei all'Università di Torino, analisi dei numeri, saggista che ci ha tante volte in questi ultimi anni confortato con numeri alla mano, con una contabilità pubblica nazionale diversa da quella, diciamo così, del sistema statistico più ampia, e capace di leggere nelle pieghe, nelle profondità, le contraddizioni del nostro paese. Luca Ricolfi ieri sulla prima pagina della Stampa ha proposto, secondo me, il tema dei temi, un tema fondamentale per capire e per analizzare meglio gli sviluppi nel centrodestra, nella maggioranza e nella vita residua di questo governo, perché il titolo del suo commento in prima pagina sulla Stampa di ieri era: il federalismo è la vera posta in gioco. Inevitabilmente negli ultimi anni, non solo negli sviluppi di queste settimane per via del disegno di legge sulle intercettazioni, che oramai è morto a tutti gli effetti dopo tanta confusione, valeva la pena, collaboratori di Berlusconi, fare tutto questo per poi autocappottarvi e ribaltarvi e seguire la linea Ghedina? Valeva la pena? La mia opinione è che non ne valesse assolutamente la pena, tante volte abbiamo detto che eravamo contrari. Ma invece di tutti questi altri temi, la legalità, il voto che ci sarà domani sul sottosegretario Caliendo, in cui i finiani vanno verso l'astensione insieme a Casini per non prendersi la responsabilità di far cadere il governo, e bisognerà anzi vedere se non vi sono parlamentari a questo punto del centrodestra che avranno l'ordine di astenersi o anzi di votare contro per poi dare la colpa ai finiani. Vedremo. Ma al di là di questo, il punto dei punti, uno su quelli di quelli sui quali l'onorevole Fini, i finiani AN, quando ancora esisteva prima del discorso del Predellino, in effetti più sono stati critici in questi anni, è stato il ruolo che nel centrodestra aveva preso sempre di più la Lega, in ragione della sua lealtà nei confronti di Berlusconi, in realtà in ragione anche del fatto che i voti che prendeva al nord, elezione dopo elezione e amministrativa dopo amministrativa, lo abbiamo visto alle recenti regionali, vedevano la Lega premiata in questo ruolo di leale ma anche di risoluto partner politico che chiedeva l'attuazione del federalismo, di cui ha visto poi le prime fette arrivare, perché è arrivata la legge delega, sono arrivate i primi passi con i disegni di legge, con i decreti, perdonate, di attuazione della delega. Ne abbiamo parlato innumerevoli volte nella trasmissione, ricordate, fine giugno, fine luglio, con i decreti sui costi standard. E proprio di fronte a questo, anche ieri, lo avete sentito, avevamo con noi il ministro Urso, uno dei punti, dei pochi punti qualificanti che ci ha detto, dicendo: noi rispetteremo il programma di governo, ma comunque bisognerà che ci sia un chiarimento, un impatto di fine legislatura. Uno dei tre punti che ci ha citato è stato ancora una volta quello della necessità di riequilibrare il peso della Lega nell'agenda del governo, nell'attuazione dell'agenda del governo. Allora, in che cosa consiste questa necessità di riequilibrare? Consiste nel fatto che ci dobbiamo aspettare che non vengano più rispettati i tempi per i disegni e per i decreti di attuazione della delega sul federalismo? Consiste nel fatto che dal basso, nella conferenza Stato-Regioni, il Sud prenderà un atteggiamento più, come devo dire, più riottoso nei confronti del governo? Tentiamo di capire davvero, anche a vostro giudizio, cari ascoltatori, se esiste una questione di Sud che riprende le armi politiche, ovviamente politiche, nei confronti del Nord rispetto all'accusa di aver pesato in eccesso. La mia opinione è che non ho capito bene in che cosa avrebbe pesato in eccesso, visto che per il momento nessun meccanismo di riequilibrio è stato messo in atto, nessuno, e abbiamo fatto le puntate sul costo standard tentando di capire col professor Luca Ricolfi, ricordate, se davvero siamo alle prossimità, in vicinanza di una scelta di un costo standard per la sanità, per le regioni e poi per le spese sottoposte a costo standard nel fabbisogno comunale e provinciale, e ricordate che noi non abbiamo ancora individuato questo punto, quindi al dunque non ci siamo ancora arrivati, al dunque quindi i virtuosi del Nord continuano a strapagare, a pagare molte più tasse e avere meno spesa pubblica in cambio, e vorrebbero essere un pochino premiati. Allora è solo l'eccesso di chiacchiera contro il quale bisogna reagire, visto che per il momento di cose concrete non ne sono arrivate, voi continuate a pagare quello che pagavate prima? Non lo so, questa è un pochino la mia impressione, ma magari mi sbaglio perché non sono abbastanza bravo a esaminare la politica italiana. E sentiamo allora che cosa ci dicono i nostri ospiti. Cominciamo la trasmissione con due ospiti fondamentali, perché abbiamo da una parte Roberto Castelli, il vice ministro alle infrastrutture della Lega. Buongiorno Castelli. Buongiorno. E Giorgio Conte, che è il neo capogruppo della componente appunto di Futuro e Libertà, quella che fa riferimento al presidente della Camera, onorevole Fini, appunto a Montecitorio. Buongiorno onorevole Conte. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Allora Castelli, posso chiedere innanzitutto a lei un rapido giudizio, come e se si aspettava gli sviluppi di questi giorni, come e se dal suo giudizio questo impatta sul governo, sulla sua vita residua e soprattutto sull'attuazione del suo programma, e infine arriviamo anche al punto, il terzo punto che le chiedo in questi pochi minuti del suo primo intervento, è che cosa si aspetta rispetto a questo ricorrente refrain che viene dalla componente politica del centrodestra che fa riferimento a Fini, relativo al fatto che pesate troppo e il Nord ha ottenuto troppo. Prego. Ma cosa ci aspettiamo? Quello dipenderà da come si comporterà questo nuovo gruppo che si è formato in Parlamento e che almeno sulla carta decisivo per l'appoggio al governo. Quindi stiamo a vedere, fino ad ora non si è mai palesato in votazioni, e quindi credo che il primo banco di prova sarà appunto la fiducia sulla mozione che riguarda il sottosegretario Caliendo. Quindi stiamo a vedere. Di certo per noi non è una buona notizia il fatto che ci sia stata questa frattura all'interno del nostro alleato, perché come abbiamo ripetuto fino alla noia, per la Lega è fondamentale che il governo stia in piedi, non tanto per affrontare la crisi economica che è stata affrontata credo in modo assolutamente positivo, ma per portare a casa il federalismo fiscale. Su questa storia del peso della Lega, francamente anch'io non capisco dove sia tutto questo peso, nel senso che noi abbiamo fatto una cosa molto semplice e molto banale, abbiamo scritto un programma che è stato condiviso da PDL e da Lega. In questo programma sta scritto che bisogna attuare il federalismo fiscale, su questo programma abbiamo avuto una larga vittoria, abbiamo avuto una larga vittoria su quella sorta di elezioni di mezzo che sono le regionali in Italia, e quindi ci saremmo aspettati tutto meno che una crisi all'interno della maggioranza, visto che questa maggioranza è stata premiata dalla prima tornata elettorale, è stata premiata dopo 2 anni di governo, quindi si pensava a un cammino più facile. La sensazione che ho io, io condivido quello che dice Ricolfi, siccome siamo alla vigilia di un cambiamento epocale del nostro paese, perché il federalismo fiscale significa un cambiamento epocale per i comportamenti del nostro paese, le forze più retrive, quelle che vogliono continuare a far sì che il nostro paese sia diviso fra chi produce e fra chi è assistito, stanno uscendo allo scoperto. Questa è la sensazione che ho, più ancora che la diatriba nei confronti di Berlusconi. Mi pare che la vera partita politica si giochi su questo fatto, sul fatto che non si vuole cambiare il paese. Quindi è proprio il meccanismo di fondo di riallocazione delle risorse in ragione dei fabbisogni, della capacità e della qualità, esatto, della spesa, quello che non si vuole toccare. Si fanno tanti discorsi bellissimi, poi quando si arriva sul denaro, allora il gioco si fa duro. Io ricordo agli ascoltatori che non lo avessero letto, che non fossero lettori della stampa, che il professore Golfi ieri diceva: sì, va bene, a Berlusconi potrebbe convenire anche andare a votare più presto eccetera, però attenti, perché per boss e i suoi andare al voto senza aver incassato i decreti delegati sul federalismo, il cui termine di emanazione è maggio del 2011, e naturalmente sarebbe il venir meno del punto di fondo della loro alleanza con il PDL. Ora, vediamo invece la cosa dal punto di vista dell'onorevole Conte, capogruppo, e del suo neocostituito gruppo. Quando negli interventi politici del presidente Fini, come di altri autorevoli componenti del gruppo, si fa riferimento al fatto che, appunto, nell'agenda del governo, nell'indirizzo politico del governo, la Lega e i temi del Nord pesano troppo rispetto al Sud, che si preoccupa di essere leso, quindi nella parte solidale invece dell'attuazione delle decisioni economiche. In concreto, quindi al di là delle polemiche, ma in concreto, per capire, si ha in testa il meccanismo del federalismo fiscale o nelle scelte che sono già state attuate in questi anni seguendo l'indirizzo del ministro Tremonti, onorevole Conte, per farci capire meglio? Certo, innanzitutto ci tengo a precisare una cosa, che questa crisi che si è inserita all'interno del Popolo della Libertà con l'espulsione politica, seppur non nel diritto giuridico, di Gianfranco Fini, ha prodotto la fuoriuscita di un gruppo di deputati, ma non certo per volontà del gruppo di deputati stesso. È una scelta che fa riferimento a un provvedimento, a un documento politico voluto dall'ufficio di presidenza del partito, che ha prodotto delle conseguenze. Noi abbiamo cercato di informare il presidente Berlusconi, che era mal consigliato sui contenuti di quel documento, di cui alcuni stralci già uscivano tramite qualche agenzia, e soprattutto per informarlo meglio riguardo ai numeri dei potenziali gruppi parlamentari che si potevano costituire, ma purtroppo non ci ha dato ascolto. E oggi verrebbe da dire, nel momento in cui si fanno valutazioni numeriche sulla consistenza della maggioranza, che causa del suo mal pianga se stesso. Ma quello che è utile precisare anche in questa sede, malgrado sia già stato sostenuto anche dal presidente Fini, che i parlamentari eletti nella lista PDL, che oggi costituiscono i gruppi Futuro e Libertà, hanno ben chiaro qual è il mandato elettorale, hanno ben chiaro evidentemente qual è il programma elettorale che abbiamo sostenuto e promosso nella campagna di 2 anni fa. E lo dico da cittadino del Nord, prima ancora che da parlamentare del Futuro e Libertà. Il federalismo appartiene alle priorità del programma elettorale, non è soltanto uno degli argomenti inseriti nel programma elettorale, è una delle priorità assolute che io stesso mi sono speso a sostenere nella campagna elettorale del 2008. E coerentemente con questo faremo riferimento nel proseguo del nostro mandato. Riguardo al peso specifico che la Lega Nord, al quale la Lega Nord è attribuito, posso soltanto sostenere che il Popolo delle Libertà, faccio riferimento per esempio alla regione dalla quale provengo, in Veneto, è un partito in crescita, certo per merito di alcune battaglie storiche che sostiene da tempo, ma anche per gli enormi spazi che il Popolo delle Libertà gli ha consentito. Su temi che molto spesso appartenevano alla storia del centrodestra. Il dibattito all'interno del Popolo della Libertà, che Fini ha voluto aprire per dare un'identità precisa al Popolo di Libertà e per non essere troppo spesso dipendente dall'agenda di governo che in talune occasioni si è data l'impressione fosse in mano alla Lega, su questo è maturato lo scontro, non certo sul programma elettorale. Quindi se questo lo dico io, non lo dice lei, siccome la politica, come del resto la vecchia fisica su questa terra dove c'è un'atmosfera e così via, non concepisce l'horror vacui, il sottinteso anche è che forse PDL, per come era nato, nel nord lasciava un po' toppo di vacuum, cioè di vuoto che la Lega naturalmente riempiva. Adesso questo io lo dico così, con parole più, un po' più taglienti rispetto a quello che l'ha detto lei, prima ancora dell'attuazione del federalismo, sul quale lei dice quello è prioritario, il programma di governo, quindi non si discute. Vedremo naturalmente i decreti attuativi, immagino li vedrete con un po' più di energia, ne chiederete di contenuti prima rispetto al fatto che prima arrivavano paracadutati, quindi ci sarà comunque un po' di questione in più, però la faccenda è quella di avere un atteggiamento più competitivo con la Lega, innanzitutto nel nord invece che lasciargli lo spazio. Quindi questa è una lettura soft, diciamo così, da parte dell'onorevole Conte. Iniziamo a sentire i nostri ascoltatori come la pensano. Innanzitutto Domenico da Milano. Domenico da Milano, che impressione ha? Lei è per un confronto soft, secondo lei, su questioni nord-sud tra fini la sua componente e la Lega, o invece sarà uno dei punti caldi? Che ne pensi? Guardi, innanzitutto io credo che questo sia stato un grossissimo passo falso di questo governo. In quale senso? Nel senso che poi mi spiace che sia un Veneto che dica queste cose qua. Cioè, voglio dire, Berlusconi cosa poteva fare dopo gli attacchi di Fini negli ultimi 12 mesi? Non poteva fare altro che questa cosa. Ma la cosa più drammatica che i finiani non capiscono, e che forse Berlusconi ha iniziato a capire, che l'unico modo per salvare questo paese è davvero il federalismo. Questo lungo stivale difficile, complicato, che ha visto un dopoguerra di un certo tipo, perché parliamoci chiaro, questo paese è vecchio per fare le cose, per fare le riforme. Il federalismo è l'unica medicina possibile che lo faccia, la sinistra non lo farà mai, lo può fare la destra grazie alla Lega. Se nessuno capisce questo, da italiano mi dispiace molto. Lei dice che non si capisce forse il succo degli ultimi 16 anni nel voto al nord, se si ignora questo. Bene, Mario da Cuneo invece, come la pensa Mario da Cuneo? È in collegamento Mario? Sì, sono pronto. Eccoci, allora che dice brevemente la sua opinione? Allora, la mia opinione è che voi state facendo un'analisi che è fondamentalmente di potere, di cadreghe, come si dice in Piemonte. No, io invece faccio un'analisi che è prettamente politica. Quello che sta succedendo oggi non poteva che avvenire, perché i finiani sono latori di un discorso che fa riferimento allo Stato sociale, perché non dimentichiamoci che l'MSI parte dal sistema socialista, mentre sia la Lega, e giustamente Castelli l'ha fatto notare, sia Forza Italia, sono due partiti che fanno riferimento fondamentalmente. Pronto, mi senti? Sì, sì, io la sento, prego. Fanno riferimento? Allora, fanno a riferimento al capitalismo, quindi a uno Stato poco presente che chiede poche tasse, ma dall'altra parte da poco servizio. Ovviamente, quindi, sono latori di interessi nettamente contrapposti. Non poteva che arrivare a questa soluzione la loro convivenza, perché due persone che ovviamente politicamente e economicamente vogliono raggiungere due scopi che sono nettamente contrapposti non possono che a un certo punto divorziare. Quindi per lei sarà scontro sul federalismo? Ma sul federalismo no, perché il federalismo secondo me può rispecchiare ambedue le situazioni, sia la necessità di capitalismo sia la necessità sociale, perché riportare il centro della spesa e il centro del recupero delle tasse a livello locale non è che sia contrario a uno Stato sociale. Grazie Mario, ha spiegato come la pensa. Vede, io propongo di sostituire quello che lei propone come binomio in contrapposizione, cioè Stato capitalismo, immagino che lei voglia dire economia di mercato. Secondo me la questione di fondo invece sui conti dello Stato, il federalismo, è quello tra centro e periferia, centro e sussidiarietà. Si può avere un'impostazione sussidiaria, cioè vicina, le risorse devono rimanere il più vicino possibile alle tasche da cui vengono prese per consentire a coloro da cui vengono prese di capire al meglio come vengono utilizzate. È il principio del beneficio, si chiama in materia fiscale, quello che raccomandava sempre Luigi Einaudi, perché quanto più si spendono vicino alle tue tasche, tanto più tu hai gli occhi per poter giudicare come vengono spese. Però il principio della sussidiarietà, che è questo, rispetto a quello che le tasse vanno il più lontano possibile, al centro, che poi redistribuisce tra tutto, decidendo quanto copre di quello che tu spendi senza avere responsabilità impositiva proporzionata alla tua spesa. E col meccanismo sussidiarietà centralismo può convivere in realtà con poco Stato o con molto Stato. Io credo che conti più questo meccanismo rispetto a quello che dice Mario, anche se naturalmente è vero che poi la vocazione più di mercato o più statalista del peso della mano pubblica nell'economia è un fattore che si aggiunge. Però per il federalismo, secondo me, conta di più la diarchia, la dialettica tra sussidiarietà e centralismo. Ancora rapidissimamente, Franco da Padova, come la pensa? Sì, buongiorno, vi ringrazio per le vostre bellissime trasmissioni. Guardi, io sono un autodidatta, l'ho già detto in altre trasmissioni, studio da circa 10 anni i resoconti della Ragioneria Generale dello Stato. Anche un, diciamo, un non professionista come me capisce facilmente che sul costo giusto delle spese pro capite medie, sì, di ogni cittadino, in particolare sulla sanità, si gioca la partita, e qualsiasi politico degno di questo nome che applichi, diciamo così, o abbia paura di applicare questo costo giusto, a mio parere desta sospetto di collusione con la mafia, perché basta guardare i conti della sanità delle regioni del bravo, sud, bravo, Franco, per capire come funziona la faccenda. Io, ahimè, sono d'accordo con lei e anche un po' con l'espressione tosta che ha usato. Naturalmente si intende non per mafia solo cosa nostra, quella siciliana, si intende un meccanismo che espande e dilata la corruzione. Quantomeno è trasparente il meccanismo dei costi intermedi per l'acquisizione di qualunque bene e servizio, gli input che concorrono poi all'offerta di servizio nella sanità come nel tutti gli altri settori fondamentali dell'offerta del pubblico di servizio, che per le regioni sono oltre alla sanità, all'assistenza e alla formazione. Quanto meno sono trasparenti quei costi intermedi di acquisizione degli input, tanto più si lascia spazio non solo agli sprechi, alle inefficienze, ma anche alla corruzione, alla mancata trasparenza nei meccanismi di acquisizione di quei beni. E quindi lo Stato a quel punto diventa corruttore, come ripeto sempre, perché l'ammontare di quella spesa, stiamo parlando dell'80-85% degli oltre 180 miliardi del totale della spesa regionale, poi da sottoporre al fabbisogno standard sono 40 dei 50 miliardi della spesa dei comuni e 7, rotti miliardi dei 9 miliardi della spesa delle province. Vedete che proporzione elevata di ammontare della spesa pubblica è, e quindi se quella roba resta non trasparente in nome della solidarietà o della copertura dei costi storici, inevitabilmente la mia opinione è che l'ultimo ascoltatore abbia ragione, diventa lo Stato corruttore. E quando lo Stato è corruttore, voi capite che poi dire che è facile fare la lotta agli ordinamenti alternativi che hanno un'efficacia coattiva maggiore di quella dello Stato diventa tosta in larga parte dell'Italia, non solo al sud. Eccoci tornati in studio. Si è aggiunto al vice ministro delle infrastrutture Castelli e al capogruppo di Futuro e Libertà Giorgio Conte, Luca Ricolfi, e a questo punto chiediamo innanzitutto a lui se abbiamo sintetizzato la sua opinione di ieri sulla stampa, ma in realtà in cosa concretamente si aspetta che si manifesti questo attrito della nuova componente dopo l'espulsione dal PDL di Fini e dei suoi. In concreto si aspetta di verificarla sui meccanismi di attuazione, quelli da sottoporre ai costi standard? La mia impressione, l'avevo già detto ai miei ascoltatori, è che in realtà già andassimo a una applicazione, identificazione di criteri fin troppo timida. Questa è la mia opinione, perché se uno ha letto i libri del professor Ricolfi sa che venivano individuati delle forbici amplissime di recupero di sprechi e inefficienze adottando costi standard stretti, cioè quelli proprio della regione Lombardia o delle due regioni Lombardia e Veneto più tra virgolette virtuose rispetto ai costi dell'acquisizione di beni e servizi intermedi e alla qualità dell'offerta. E però l'impressione, leggendo i documenti della commissione tecnica, facendoli commentare al professor Antonini, è che si stesse andando a un meccanismo di attuazione molto molto più lasco, per ovvie ragioni, per non indurre le regioni fuori linea tantissimo fuori linea a quel punto per decine di miliardi, a non insorgere in nome del venir meno della solidarietà, perché il tempo di attuazione poi di convergenza deve essere sufficientemente lungo, ma anche abbastanza non troppo lungo in termini di decenni, e quindi più ampia la forbice più poi diventa difficile far convergere la gente, per tutte queste ragioni. Ma io avevo l'impressione di un meccanismo, insomma, che per i federalisti che dicono finalmente dopo 16 anni ci siamo, il momento serio, non fosse proprio il Bengodi. Ma di fronte a questo c'è chi dice oggi però è troppo, bisogna ridiscutere. Che pensa Ricolfi, che quale sarà l'effetto? Ma guardi, intanto io penso che sia molto difficile fare una discussione se non ci sono i decreti delegati. E noi per ora abbiamo visto pochissimo, non si sa con precisione che cosa verrà scritto in questi decreti. Anch'io ho l'impressione che rispetto alle ipotesi iniziali il federalismo, da quel che si legge di anticipazioni, sarà più blando del previsto. E anche per questo che io nel mio pezzo di ieri dicevo che sono stupefatto delle critiche dei finiani, perché il federalismo che si sta delineando è quello comunque diciamo delineato nella legge delega, è molto ma molto più blando, tiene molto più conto delle esigenze del sud, delle obiezioni dell'opposizione, di quello che era l'idea iniziale della Lega. Quindi per me su questo terreno i finiani e anche il PD hanno già ampiamente vinto, cioè noi andiamo verso un federalismo che sarà estremamente prudente. Devo aggiungere però che io continuo a dire, avendo studiato la legge, che il problema non è tanto quello dei quattrini che arriveranno in ogni territorio, perché lì ci sono degli squilibri, ma non sono grandi come vengono dipinti dalla Lega e dai nordisti più accesi. Il federalismo sarà incisivo se inciderà sull'evasione fiscale e sugli sprechi, non sui trasferimenti di risorse, perché dei 50 miliardi che io ho quantificato come squilibrio territoriale complessivo, solo 12 sono dovuti al fatto che alcune regioni ricevono troppi soldi sotto forma di spesa pubblica corrente. Gli altri quattrini, e sono tanti, sono 38 miliardi di euro, sono dovuti al fatto che alcune regioni si permettono di evadere il fisco molto più di altre e alcune regioni si permettono di sprecare molto più di altre le risorse sotto forma di inefficienze nell'erogazione dei servizi. Questi sono i due grandi problemi. Ora, su questi la legge Calderoli è piuttosto vaga e quindi secondo me il rischio che il federalismo sia poco incisivo è molto forte, quindi io vedo il problema in un certo senso in modo capovolto, vedo il rischio di un federalismo non che rischia di punire il sud, ma che rischia di lasciare le cose quasi invariate. Onorevole Conte, per numeri alla mano, visto che poi sul totale dei 106,5 poi diventeranno 110 e diventano ben più di 110, ma 118 se invece del Fondo Sanitario Standard Nazionale ci comprendiamo i deficit accumulati dalle 13 regioni complessivamente tra le commissariate e le soggette ai programmi di rientro 4 della sanità, del Fondo Sanitario Nazionale, rispetto a questa cifra, in realtà quando noi abbiamo fatto la trasmissione col professor Antonini e con gli esperti dei diversi partiti che seguono in concreto la questione dei decreti di attuazione della delega sul federalismo fiscale, abbiamo capito che rispetto a possibilità di un federalismo fiscale con l'eventuale costo standard sanitario, che già non è più costo standard ma si parlava di un criterio di costo storico capitario, cioè per amministrato, di convergenza, però insomma alla fine usciva fuori che l'input, quello che era stato dato politico, era di risparmiare rispetto a questo totale insomma non più di qualche miliardino, non 15, 17, 20, ma alla fine, sia pura fatica della trasmissione, siamo riusciti a capire che era tra 3, 4, 5 miliardi. Allora, se questo sarà, ed era già nelle corde del dibattito che c'è intorno alla commissione tecnica e che tra chi segue il decreto, innanzitutto poi intorno al ministro Calderoli, che poi è della Lega, se questa è la realtà dei fatti, e quindi ha ragione il professor Ricolfi, secondo me, paradosso era che voi avreste dovuto forse comprensibilmente menar vanto di essere riusciti a, come vogliamo dire, contenere, comporre le pretese della Lega in un quadro di riequilibrio nazionale, come a dire: noi tanto siamo forti nel PDL su questo che abbiamo limato le unghie alle eccessive pretese, chiamiamole così. La mia opinione è che siano efficienti per tutti, però eccessive pretese di un nord che dimentica i doveri di solidarietà verso il sud. Questo almeno direbbero i numeri. E invece perché non è così, e c'è l'obiezione, dice no, quelli contano troppo? Io sono costretto a fare un passo indietro rispetto alla precisa domanda. Premetto, non sono un esperto di numeri, ma conosco queste cifre. Noto che si parte dal presupposto che la componente finiana in Parlamento, così chiamata quantomeno, sia ostile al federalismo e in particolare anche ai decreti attuativi. Io devo sottolineare, come ho fatto nel precedente intervento, che questo non corrisponde alla verità, assolutamente. Non so a quali dichiarazioni si riferisca il dottor Ricolfi quando dice le dichiarazioni dei finiani. Certo, non sono nato ieri, so che all'interno anche del gruppo dei finiani esiste una componente parlamentare di estrazione territoriale del meridione, all'interno del quale il messaggio sul federalismo ancora fa fatica ad attecchire, e quindi nelle logiche propagandistiche qualcuno si fa paladino e arciere della difesa dei diritti, di alcuni privilegi del meridione consolidati storicamente, che invece sono convinto vadano in qualche maniera rivisti, per usare un eufemismo. Ma questo accade in tutte le forze politiche. Io potrei citare altre numerose interventi di parlamentari che appartengono tuttora al Popolo della Libertà, di stessa appartenenza territoriale, che sostengono la medesima tesi, ma non mi sogno nemmeno di dire che il PDL è contro il federalismo, e quindi contesto alla radice, diciamo così, le affermazioni che i finiani sarebbero ostili a. No, cioè, però diciamo generale, che l'estrazione dei parlamentari, il seggio dove sono stati eletti, ha il suo rilievo. 4 su 5 dei vostri più o meno sono eletti a sud, almeno io, tutti gli articoli l'hanno spesso fatto notare in questi ultimi 2-3 giorni. Tutto qua. Di 33 parlamentari che compongono il gruppo parlamentare della Camera dei Deputati, 5 sono eletti in Veneto. Io faccio temporaneamente il capogruppo, però posso dire che assieme all'onorevole Bellotti, all'onorevole Polidori, Maurizio Saia, Adolfo Urso, insomma, siamo eletti in Veneto, abbiamo fatto campagna elettorale in Veneto per varie legislature, e fin dal Polo delle Libertà per poi passare alla Casa delle Libertà e poi il Popolo della Libertà abbiamo sostenuto, certo con ragioni diverse, con sottolineature diverse, ricordo il cosiddetto federalismo solidale, eccetera. Da 15 anni che la parola federalismo appartiene al programma elettorale del centrodestra, e non saremo certo noi, nell'ambito del programma del centrodestra, a mettere i bastoni tra le ruote all'approvazione di questa importante riforma. Dopo sui dettagli si può discutere, ma sullo spirito generale rimozione dei privilegi, delle spese eccessive, degli sprechi e delle spese storiche consolidate, siamo assolutamente d'accordo. Siamo meno d'accordo nell'andare a brandire il federalismo come arma di propaganda, come troppo spesso accade, piuttosto che a ragionare sui contraccolpi che tutto ciò potrebbe portare nel momento in cui non il federalismo non fosse affrontato con la dovuta responsabilità. Tra l'altro a me sembra che nell'ambito dei decreti attuativi questa responsabilità sia assolutamente rispettata. Oh, e allora però vede, qui può essere che la politica come sempre debba pagare un tributo un po' ipocrita, perché deve, non so dicendo a lei, nelle sue espressioni deve essere rotondo nei momenti in cui si rischia di più e poi diventa aspra nei momenti in cui invece si rischia di meno. Quindi siccome potrei citarle decine di dichiarazioni del presidente Fini a proposito del 150esimo anniversario contro la Lega, decine, cioè nel senso che è un refrain, magari aspre quanto possono essere polemiche politiche che non arrivano agli insulti, però molto aspre, molto chiare, cioè è un carattere costitutivo dell'identità dell'iniziativa politica dell'onorevole Fini nelle sue dichiarazioni, e sto parlando dell'onorevole Conte, non nelle sue, però questo fatto di dire non siamo d'accordo perché è un'anima che resta potenzialmente secessionista, io poi vado a vedere i numeri e dico come fare a essere potenzialmente secessionista se il meccanismo nuovo non attenta di fondo agli equilibri, ma anzi Calderoli tanto ha detto che diventava coeso rispetto al sud che lo è diventato pure troppo, se posso fargli una critica da parte mia. Allora chiedo a Castelli, è una componente dal suo punto di vista della dialettica con cui è comprensibile che l'onorevole Fini adesso voglia radicarsi soprattutto nel sud, ma insomma in tutto il paese, e quindi tenterà da una parte di accentuare questi riferimenti polemici ma in discorsi generali, però rimanendo poi nel concreto della vita parlamentare sul binario che ci spiega con questa costruttiva assoluta e rigorosa cortesia e rispetto l'onorevole Conte, dicendo ma no, ma guardate che noi non siamo contrari e anzi al contrario si tratterà semplicemente di continuare su una linea che mi sembra sia nel programma di governo che rispettosa della coesione nei confronti del sud. Si aspetta questo doppio binario l'onorevole Castelli, o si aspetta invece che al dunque, quando ci sarà la rottura, si capirà bene su che cosa e dove, quindi che sia un po' troppo presto capirlo? Ma guardi, con tutto il rispetto, a noi in questo momento interessa poco qual è l'offerta elettorale che, o programmatica che questo nuovo gruppo vorrà offrire al Paese. Ovviamente ciascuno in democrazia è libero di confezionare il programma che crede e poi offrirlo agli elettori. A noi in questo momento interessano i decreti delegati, quindi io vorrei tornare su questo tema. C'è un punto fondamentale che voi avete ottimamente sottolineato, sia lei che il dottor Ricolfi, che saluto e che stimo, che è quello della definizione dei costi standard. Questo è il punto clou, quindi sarà quella cifra che determinerà il successo o l'insuccesso di questa operazione che la Lega sta portando avanti con tutte le sue forze da tanti anni. Ora io mi permetto di sottolineare una questione. La Lombardia è la regione che probabilmente offre il miglior servizio sanitario, è la regione dove c'è il più alto costo della vita. Non si capisce perché i costi standard della Lombardia non possano essere riferimento di tutto il paese. Questo credo che sia il dato fondamentale. Riguardo alla obiezione che faceva il dottor Ricolfi, io ricordo agli elettori che il dottor Ricolfi è un sociologo che ha, dopo che ha fatto i conti di quello che accade tra nord e sud, ha deciso di intitolare il suo libro Il sacco del nord, e questo credo dovrebbe far riflettere tutti. Lui diceva una vera partita sono gli sprechi e l'evasione fiscale. Perfettamente d'accordo. Noi riteniamo che se mettiamo dei costi standard seri, noi tra virgolette obbligheremo anche regioni in cui c'è questa altissima evasione fiscale a andare a cercare fondi all'interno della regione stessa e quindi combattere la regione fiscale. Quindi la partita del federalismo si gioca su due grandi vie: la prima, riequilibrare i trasferimenti, ma la seconda, che in questo momento storico secondo me sta diventando ancora più importante della prima, cosa che non era fino a qualche anno fa, è appunto l'eliminazione degli sprechi e il recupero dell'evasione fiscale, perché io sono assolutamente convinto che il federalismo è l'unica strada per tenere in piedi il paese, per farlo sopravvivere economicamente, altrimenti ci sono scenari secondo me molto inquietanti di natura sudamericana che ci aspetta, anzi direi che questo tema si diceva così qualche anno fa, oggi potremmo dire di natura greca, visto che in questo momento sì. I paesi dell'America Latina stanno reagendo molto bene. Magari potessimo dire che il nostro futuro è quello del Brasile di oggi, insomma. Sentiamo ancora rapidamente un paio di ascoltatori e poi torniamo un giro finale dei nostri ospiti. Cominciamo con Stanislao da Salerno, quindi dal sud. Prego Stanislao. Buongiorno a tutti. Pronto? Dica. Buongiorno. Intanto volevo salutare il professore Di Corsi, di cui ho apprezzato il libro sul sacco del nord, perché letto insieme con l'Italia Corta di Scotti potrebbe servire a chiarire molte cose. Altro che. Lo ripetiamo spesso e noi li vorremmo adottare come documenti a Carredo nelle commissioni parlamentari, quei libri. Comunque, prego Stanislao. Volevo fare un'osservazione prima di tutto sulla questione dell'uso della parola proprio federalismo. Cioè, io penso che ci sia un'improprietà di linguaggio. Ormai il federalismo è passata come convenzione. Di fatto tutte le attività che si stanno proponendo altro non sono che il completamento di quello che dovrebbe essere la delega di poteri alle regioni. E quindi la parola federalismo è un po' impropria. In effetti noi siamo sempre stati orientati verso questo, abbiamo fatto un ritardo, negli anni 70 abbiamo incominciato. Però sa com'è, come ha detto lei stesso, ci sono delle parole che diventano convenzioni politiche e lui si utilizza poi per quello. E va bene. Poi... Però è lontane dal contenuto. Poi una domanda, visto che si è parlato di distribuzione, di fondi, eccetera, soprattutto nell'ambito della sanità. Nel 2000 fu l'ultimo governo D'Alema, fece una legge che riconosceva la redistribuzione del servizio sanitario nazionale in base all'anzianità e non in base alla popolazione. Non che la Campania, la mia regione, ne potesse beneficiare, perché il problema era sicuramente gestionale, è stato in questi anni di gestione e non di fondi. Però se le regioni che per anzianità ricevono più soldi, sono poi di fatto anche la Lombardia, una di quelle privilegiate in questo, hanno più materia da gestire con i soldi che vengono raccolti su tutta la base nazionale. E lei è favorevole a questo? Mi pare di capire? No, io penso che si dovrebbe ritornare a un sistema che sia basato sulla popolazione. La premialità sulla gestione dovrebbe essere un altro discorso, cioè dovrebbe essere un aspetto legato al management che viene usato nel pubblico e che a volte è scadente, oppure è troppo politicamente diretto e quindi fa delle scelte che non sono razionali ma sono legate a meccanismi di clientela. Però Stanislao, adesso io la devo interrompere sperando di non averle levato la facoltà di aggiungere altro di fondamentale. Vede, qui ci sono, sta toccando due questioni che sono proprio quelle su cui due volte abbiamo fatto la trasmissione con il professor Antonini e con gli esperti della commissione. Perché? Io mi batto personalmente perché esistano il più possibile ampie documenti da parte delle regioni che consentano di fare simulazioni micro, quelle in cui si compara il costo di acquisizione di un bene intermedio che contribuisce alla formazione del costo complessivo di un servizio o di un prodotto offerto dalla sanità pubblica, e che poi venga, si consenta la comparazione tra questo meccanismo che forma i costi e il prezzo all'offerta e la qualità dell'offerta stessa. Questo ha a che vedere con quello che lei chiama il management, per capirci, cioè i diversi processi che compongono tutto questo. Sono diverse curve di costo a livello regionale, perché non è vero che gli input sono uguali in tutta Italia, tanto per dirne uno. Non è vero che il trasporto, la logistica, la lontananza dai centri di produzione dei beni non influisca. Influisce, certo, quando influisce nell'ambito del 500%, come capita a volte in Italia per una siringa, ecco, siamo in una patologia. Però io sono a favore di una impostazione in cui queste robe qua si abbiano i dati per poterle poi alla fine scegliere. Altro conto è se i dati completi non li avremo. Noi fino a questo momento non li abbiamo, perché molte regioni questi dati fatti così non li danno alla commissione tecnica. Questo per essere chiari, tant'è vero che si deve chiedere che sia la SOS, la società dei servizi di settore, a chiedere ai comuni e alle province regionali. Per il momento siamo al fatto che non tutti li danno. E allora l'altro criterio è quello di andare a un costo capitario, cioè di fare una media di convergenza di quello che si spende nei diversi sistemi regionali sanitari per assistito, e allora facendolo per assistito esiste la necessità di dover tarare questo costo capitario medio o mediano o di convergenza, che viene individuato come la cosa più virtuosa, per le caratteristiche però di anzianità, patologia e epidemiologia delle popolazioni assistite, che non sono analoghe in tutta Italia, perché non è che in tutta Italia è uguale la condizione e quindi l'intensità di spesa sanitaria e ospedaliera necessaria. Io sono perché passi la prima strada. Se invece passerà la seconda è un costo storico corretto, questo è il punto vero. Capisco che siano questioni tecniche, però poi, come ha detto il vice ministro Castelli, è a seconda del concreto meccanismo scelto su questo che si capirà se dopo 16 anni di polemica sul federalismo abbiamo svoltato oppure no. Sentiamo ancora Gaetano dalla provincia di Frosinone. Buongiorno. Prego. Buongiorno Gaetano. Volevo intervenire su questo tema, il federalismo e la questione sanitaria. Per quanto riguarda il federalismo, volevo osservare questo, che sono d'accordo sicuramente, anche se gli esperimenti fatti negli ultimi 20 anni sulla decentralizzazione, penso alle province, alle università, alla sanità, con la moltiplicazione dei centri di spesa e dei centri di responsabilità, è stato assolutamente fallimentare, con deficit che sono esplosi. Sì, ma quelli non erano responsabili però delle cifre che spendevano, questa è la differenza. L'aspetto in relazione alla sanità, volevo osservare questo, che io non capisco dov'è il problema, nel senso che in qualsiasi grande azienda, anche se ha una struttura territoriale molto capillare, si fa riferimento a dei costi standard, dei beni e servizi che sono acquistabili in qualsiasi parte d'Italia. Questi beni e servizi sono negoziabili da un ufficio acquisti centralizzato. Io in questo caso, laddove c'è una siringa che costa il 500% in più da una parte all'altra, c'è poco da discutere, c'è qualcuno che ruba. C'è qualcuno che ruba, però come si fa a fare, se vogliamo la sanità centralizzata dobbiamo levarne la competenza alle regioni però. Ci serve un'agenzia che si occupi dell'acquisto dei beni e servizi, poi i servizi possono essere acquistati territorialmente sulla base anche questo di standard. E tutte le regioni acquisiscono questi beni attingendo a questi costi standard. Una mega Consip, però questo significa ledere la responsabilità regionale della sanità. Questo è, vede, perché non c'è ancora chiaro se non ci conveniva tenere tutto centralizzato. Io dico di no, visto che anche l'esperienza centralizzata era quella che non c'erano gli acquisti centralizzati per efficienza, quindi per essere chiari. Però lei propone un passo indietro, cioè lei propone di levare una delle competenze fondamentali della regione. E allora non ci siamo. Allora, le due opinioni finali. Rapidissimo, onorevole Conte, ci conferma che ci sarà astensione domani in aula? No, non glielo posso confermare ufficialmente, diciamo che questa sembra essere l'ipotesi più probabile. Non posso far altro che rimandare l'annuncio ufficiale dopo l'incontro che abbiamo anticipato ieri. Però lei mi conferma quello che c'è che ha detto a un quotidiano oggi, che in caso di elezioni anticipate i cittadini ci verrebbero dietro coi forconi, l'ha detto, sì? Ah sì sì, l'ho detto, lo sostengo, ne sono assolutamente convinto. Credo che oggi le elezioni anticipate non servono assolutamente a nessuno. Bene, grazie onorevole Conte. Onorevole Castelli, lei si aspetta di poter convivere efficacemente e serenamente con questa nuova componente? Dica la verità in pochi secondi. Castelli? Ma io ho visto che Berlusconi ha fatto un atto di coraggio molto forte, poteva in qualche modo evitare questa votazione che poteva rischiare di tutta la caduta del governo. Va in qualche modo a vedere le carte di questo nuovo partito che in questo momento decide di temporeggiare. E quindi mi pare che Berlusconi con questo atto di forza abbia guadagnato un punto, quindi io sono più ottimista di ieri. Va bene, domani è un altro giorno e la conclusione però è che finché mancano questi numeri, io la penso come Ricolfi, lo Stato resterà più facilmente corrotto.